Giri di notte, rotte, vanno oltre il mare dei pianti. Tanti strette, giri di notte rotte, vanno oltre il mare dei pianti. Tanti stenti, verso violini di veglieri neri, pirati veri, i nostri cuori a sbocciare primavere di fiori d'allori. Onore ai caduti, signori, misteri e orrori, guerre per poteri forti, fuori impetti di sanguinari militari, profeti di silenzio e di disarmi amari, giri di notte rotte vanno oltre il mare dei pianti, tanti stenti, giri di notte rotte vanno oltre il mare dei pianti, tanti stenti, giri verso velini venieri neri, pirati veri, i nostri cuori a sbocciare fino a vedere i fiori da colori. Onori ai caduti signori, misteri onori, guerre di poteri, forti, fuori impetti, sanguinari militari, profeti di silenzi, di disarmi amari.